Misere, misere, misere. Miserere, miserere. Misere, misere, misere, miserere, miserere, miserere. Pasqua. Pace, dimmi dove sei, tra le mani della miser, nada. Ruba in strada, mentre beve in Africa, bimbo poca rugiada, nada, terra arida e nada, salvi il sole nelle tasche, miserere, miserere, miserere, miserere, miserere, miserere, noi che tutto avemmo, non saremo pieno i loro cori che esameno, a nubi sorpresa, cuore mio de alma con grano, dove osa solo cuore sano, strade toffa, scoppia e manca, serve metano, CBS, Big Pharma e mondo contro mano, contro mano, mondo musulmano contro occidente, proprio di amare le oro, si parla con diavolo, spiriti a guerra, i ribelli, alzatevi, crescete, alzatevi, crescete, uccidete. Spiriti arguti, ribelli, alzatevi e crescete, incidete, lacrima d'inchiostro con stilo amare, armate, puntate, sparate i soldi, in manca, nella tasca, faide, faida, strada, stratificata lacrima, ritmica, su, binari, ombra, rivivi, para, pace, dimmi dove sei, tra le mani della miser, nada, rubi in strada mentre bevi in Africa, bimbo poca rugiada, nada, terra arida e nada, sabbia e sale nelle tasche, miserere, miserere, miserere di pecunie, miserere, miserere, miseri noi che tutto avemmo, non sale non fieno e i loro cori pesa meno, a nubi soppesa, cuore mio de alma con grano, dove osa solo cuore sano, che strada è toffa, scoppia e manca, serve metano, CBS, Big Pharma e non il contromano.